Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Libia, Lamorgese in visita a Tripoli, movimenti di truppe a Sirte, l'incognita Egitto. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Oil has played a major role in the years-long conflict in Libya. Before leaving, they planted landmines and booby traps. Returning homeowners have fallen victim to them. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية. Welcome back to our place of work. Sempre complesso parlare di Libia, sempre complesso raccontare la Libia. Doveroso però. In un'Italia alle prese con la crisi Covid, per ora e speriamo per sempre allontanata, e con la conseguente crisi economica, esistono certamente delle priorità. Attenzione però a guardarsi solo l'ombelico. Anche e soprattutto in momenti emergenziali, in cui parrebbe fisiologico concentrarsi sui problemi interni, ebbene la politica deve fare uno sforzo di lungimiranza e apertura. Guardare, intervenire in senso lato all'estero consente di anticipare tendenze e eventuali problemi, consente di pesare di più sui tavoli internazionali. E un peso geopolitico maggiore, una rinnovata proiezione all'estero e in particolare nel Mediterraneo aprono anche a opportunità economiche. Per questo noi di Nessun Luogo quotidianamente accendiamo i riflettori su aree apparentemente lontane e questioni che solo a prima vista non ci riguardano. Il mondo è piccolo e, come ci ha amaramente dimostrato il Covid, ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarderà sempre e comunque. Per questo ogni giorno cerchiamo di raccontarvi cosa accade fuori dai nostri confini, per capire meglio e decidere meglio. Giusto esserci, quindi, anche dall'altra parte del mondo, senza irrealistiche ambizioni neoimperialiste, ma con la giusta lucidità. Gli italiani, vedete, lo fanno già. Piccole, medie, grandi imprese lavorano all'estero e con l'estero. E tanti lavoratori in questo momento ci ascoltano proprio dall'estero. Ci vuole quindi una rinnovata coscienza politica che rimetta gli affari internazionali al centro dell'agenda italiana. Da dove partire? Beh, dalla Libia, che, come direbbe qualcuno, è a un tiro di schioppo da noi. Buona giornata dunque e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano, tutta incentrata sulla questione libica. Lo avete sentito, complice la visita del ministro Lamorgese a Tripoli. Cercheremo di rifare il punto su un quadrante a noi molto vicino, appena 400 km a sud dei nostri confini, e molto molto importante. La squadra di Nessun Luogo, ve la ricordo: Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, oggi Danilo Di Trani in assistenza, Valeria Bernardi in regia. La prima cosa da fare naturalmente è andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. E come sempre quando si vanno a toccare temi particolarmente caldi e sensibili, gli ascoltatori sono molto molto veloci a scrivere al 349-238-6666. Altro tema caldo che è qui sul nostro tavolo. Questione Egitto, questione Regeni. Ha appena parlato il ministro degli esteri Luigi Di Maio in audizione davanti alla commissione d'inchiesta sul caso Regeni alla Camera. Ha detto: i rapporti tra Italia e Egitto sono oggettivamente compromessi dalla vicenda Regeni, restano nettamente al di sotto delle loro potenzialità e non sono paragonabili a come erano in passato, non torneranno allo stato precedente finché non ci sarà verità per Giulio. Ciò nonostante, ha aggiunto sempre Luigi Di Maio, la cooperazione tra Italia e Egitto risponde a un nostro interesse nazionale e solo un partenariato lungimirante, ancorché critico, ci permetterà di dare sostanza al nostro ostinato impegno per la verità. Ma questo non significa sottovalutare la gravità dell'omicidio di Giulio, che resta per noi la priorità assoluta. Intanto Antonio Talia mi segnala che c'è un'altra breaking dell'ANSA. Ho i miei dubbi che la vendita di armamenti all'Egitto si possa intendere come un favore dell'Italia, anche perché ci sono altri paesi che sono pronti a fare lo stesso. Non credo che quella cosa infici la ricerca della verità, tantomeno possa essere una leva per ottenerla. Così ha continuato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, lo ricordo, in audizione davanti alla commissione d'inchiesta sul caso Regeni alla Camera. Secondo molti osservatori, è stato anticipato, è stato anteposto l'interesse delle relazioni soprattutto economiche rispetto invece a quello della verità giudiziaria su Giulio Regeni. Torneremo naturalmente sul caso. Intanto però vi do conto di altri fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che hanno destato il nostro interesse, la nostra attenzione. Sudan, ne abbiamo parlato parecchio ultimamente dopo il crollo del regime di al-Bashir, il dittatore che per 30 anni ha governato l'importante paese africano. Ebbene, come sapete, ricorderete, l'abbiamo raccontato spesso, esiscete un governo di transizione che miscela in qualche modo sia l'anima militare che quella civile, in questo momento a Khartoum. Ebbene, nel corso delle ultime settimane il governo sudanese di transizione ha approvato una serie di riforme che sono molto molto importanti. Il governo guidato da Abdallah Hamdok, scrive il Guardian, sembra aver accelerato il ritmo delle riforme a seguito degli appelli dei gruppi filodemocratici, scusate, proprio per un cambiamento più rapido. Quali le riforme adottate? Innanzitutto, a maggio erano state messe al bando le mutilazioni genitali femminili, con previsione di una condanna fino a 3 anni di carcere per chi continuasse a praticare questa violenta pratica che, come sapete, è molto dannosa per la salute delle donne. Secondo le stime delle Nazioni Unite, riguarda l'87% delle donne di età compresa tra i 14 e i 49 anni. E poi un segnale, se volete, più di apertura nei confronti degli stranieri e delle minoranze religiose: è stato cancellato il divieto per i non musulmani di bere alcol in privato, resta naturalmente per i musulmani, è stata depenalizzata, e questo è molto importante, la pratica dell'apostasia, ovvero la conversione dall'Islam a un'altra confessione religiosa. In passato, pensate, veniva punita addirittura con la pena di morte. Favore e plauso da parte della comunità internazionale per un Sudan che pur tra mille difficoltà e fatiche cerca di scrollarsi di dosso quelle ruggini e quella polverosità di un regime che per 30 anni lo ha relegato a un ruolo di subordine anche nella regione. Abbiamo parlato tantissimo di Cina e di Mar Cinese Meridionale nelle ultime puntate, spesso anche accarezzando quello che è il lato strettamente militare. Ebbene, l'esercito di Taiwan sta svolgendo in questi giorni una serie di esercitazioni, si concluderanno mercoledì prossimo, nella città di Taichung, costa occidentale del paese. Immaginerete anche voi lo scenario, qual è lo scenario sui quali lo Stato Maggiore taiwanese sta lavorando: l'invasione da parte dell'esercito della Cina. Secondo quanto riferiscono i media locali, l'esercitazione è stata parecchio realistica, elicotteri d'assalto hanno lanciato missili, caccia hanno sganciato bombe su obiettivi in mare, mentre i carri armati hanno sparato dalla spiaggia per scoraggiare quella che potrebbe essere una forza di invasione, appunto quella più verosimile, quella cinese. La presidente Tsai Ing-wen: vogliamo che il mondo veda la nostra determinazione e i nostri sforzi per proteggere il nostro paese. Lei stessa ha presieduto, ha osservato l'esercitazione vestendo un uniforme militare e un elmetto di protezione. E le esercitazioni di questo tipo si svolgono periodicamente nel Mar Cinese Meridionale e a Taiwan, ma vista la sensibilità, la delicatezza della situazione nell'ultimo periodo, è evidente che assumono contorni e valenze anche molto molto diverse. Come ha ben ricordato Al Jazeera, l'esercito di Taiwan è molto ben addestrato, ben equipaggiato, la maggior parte degli armamenti arrivano proprio dagli Stati Uniti, sapete che c'è un rapporto privilegiato con Washington, e la presidente Tsai ha fatto del potenziamento delle difese e dell'isola una delle sue priorità fin dalla prima elezione, quella del 2016. Arrivano tanti messaggi al 349-238-6666, un po' su Libia, un po' sul caso Regeni, cercherò di darvi conto dei vostri commenti, delle vostre opinioni, delle vostre domande. Non prima però di avervi raccontato una storia che è particolarmente inquietante perché ha preso di mira una serie di personaggi pubblici statunitensi molto molto importanti ed è probabilmente uno degli attacchi su più larga scala e più grave che il social Twitter ha ricevuto negli ultimi tempi. Nel pomeriggio di ieri Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk e Kanye West hanno pubblicato quasi in contemporanea una serie di messaggi molto simili: mandatemi dei bitcoin, vi restituirò il doppio della somma, fatelo però entro 30 minuti. Evidentemente gli account erano stati hackerati, evidentemente chi ha organizzato questo attacco cibernetico cercava degli account molto conosciuti, con tantissimi follower, verificati, in modo che questo messaggio, magari per i più incauti, suonasse come realistico e verosimile. Vi dicevo, forse uno dei peggiori attacchi lo ha detto Dmitry Alperovic, cofondatore di un'azienda specializzata in cyber security, lo ha sentito recentemente alla BBC, ha detto: sembra davvero essere il peggior attacco a un grande social media mai registrato. attacchi di questo tipo vi sono stati, ve ne saranno ancora, certamente gettano ombre su quello che è e gioca in questo momento il ruolo giocato da Twitter. Immaginate attacchi simili a personaggi politici in piena campagna elettorale o per esempio a poche ore dall'apertura dei seggi elettorali, magari con attacchi un pochino più smaliziati. Ecco, questa di Bitcoin francamente sembrava, a mio modestissimo opinione e parere, più una provocazione, quasi un test sulla cedevolezza di Twitter che un attacco vero e proprio. È ricco oggi, è il nostro termometro internazionale. Vi porto in Giordania al volo perché la notizia del scioglimento del ramo locale dei Fratelli Musulmani, lo sapete, movimento islamista sunnita transnazionale, è presente, dovrei dire forse era presente in Egitto così come in tanti altri paesi del Medio Oriente. La Giordania lo ha dichiarato sciogliere. Infatti il movimento, come dichiara l'agenzia AFP, ha dichiarato un funzionario della Corte di Cassazione giordana, non è riuscito a omologare il suo status legale rispetto alle leggi giordane. Dobbiamo ricordare che in Giordania regna un re moderato, re Abdallah, che a differenza di altri paesi ha tollerato la presenza del ramo giordano dei Fratelli Musulmani, ma evidentemente in questi momenti così concitati della storia medio orientale anche la stretta giudiziaria sta cercando di premere e portare allo scioglimento dei Fratelli Musulmani. Fratelli Musulmani che comunque godono di un certo appoggio in molte fasce della società giordana e molto spesso erano stati anche critici verso la monarchia di Re Abdallah, accusati di essere troppo modernizzatori. Anche qui, ancora una volta, abbiamo, come dire, una distonia, abbiamo un braccio di ferro, abbiamo una lotta tra quelle che sono le anime più islamiste, in alcuni casi forse più retrograde, e invece quelle personaggi che tentano di portare avanti un processo di secolarizzazione, di laicità dello Stato. L'ultimissima notizia che ha acceso la nostra attenzione arriva dal Regno Unito perché Londra ha accusato Mosca di un tentativo di ingerenza nelle elezioni generali del 2019. Alcune agenzie di intelligence occidentali accusano la Russia di aver tentato un attacco ad alcune organizzazioni sanitarie globali. Ha parlato il segretario degli esteri britannico Dominic Raab, per cui sarebbe molto concreto quello che è stato il tentativo di attacco, fra l'altro anche hackerando account di posta elettronica e collegato anche a un account Twitter Gregoriator, che avrebbe cercato di cogliere e catalizzare l'attenzione di varie celebrità e giornalisti. È la prima volta che il Regno Unito ammette il tentativo da parte del Cremlino di un'ingerenza così profonda, così chirurgica all'interno della sua politica. Però Reuters ha battuto pochi minuti fa un'altra notizia: gli hacker russi avrebbero colpito anche su altre fonti e in particolare tentativi di hackeraggio ai danni di varie organizzazioni sanitarie globali che si stanno occupando, indovinate di che cosa? Beh, di trovare il vaccino per il Covid-19. Se confermato, Mosca un po' a tutto campo, da un lato cerca di influenzare le politiche e dall'altro cerca di garantirsi maggiori informazioni per il vaccino del Covid-19. 349-238-6666. Allora, un messaggio decisamente icastico che arriva da un'ascoltatrice, se non sbaglio, dal profilo dall'account di WhatsApp Russofobia, così battezza le agenzie che vi ho appena raccontato. Le fonti sono Dominic Raab, che è l'equivalente del ministro degli esteri britannico. Le fonti sono la Reuters, il New York Times e il Washington Post. Però che dobbiamo fare? Valeria Bernardi, ci becchiamo anche dei russofobi. Poi c'è qualcuno che torna sulla questione Regeni, i genitori riceveranno sempre menzogne sulla morte del figlio, si rassegnino. Di Maio e compagni non hanno interesse sulla verità, così Shu al vetriolo, che respinge in qualche modo quella che è stata l'audizione del ministro degli esteri Luigi Di Maio davanti alla commissione. Qualcun altro, ancora Regeni, che cosa ci faceva in Egitto e per conto di chi? Risponda grazie, abbiamo risposto mille volte, era un ricercatore. Per favore, non tirate fuori questa storia, questa contronarrativa stucchevole e ributtante del fatto che fosse una spia al servizio della Gran Bretagna, come ha scritto anche via SMS un ascoltatore. Se e quando, gentili ascoltatori, qualcuno di voi, oppure qualcuno che fa questo mestiere, che va a investigare, che va a indagare magari per anni, tirerà fuori prove confutabili e certe, allora risponderemo e racconteremo di questo fatto. Se no, francamente trovo ignominioso imbrattare la memoria di un ragazzo morto e morto in quel modo. Tanti gli altri messaggi, tra poco ve ne do conto, Valeria Bernardi, però adesso andiamo in Libia. Libia, facciamo un'operazione musicale anche, che è quasi filologica, adesso i più attenti osservatori e arabisti mi contesteranno, però c'è una scena metal tunisina che ha destato l'attenzione particolare del nostro Andrea Macchioni. Siccome il confine ovest della Tunisia condivide non solo il confine fisico ma anche alcune tribù, ci siamo sentiti in dovere di proporvi questa colonna sonora, tanto più che la scena metal libica in noi non ci consegna niente di particolarmente rilevante. Perché torniamo in Libia? Allora, due le notizie di rilievo. Primo, la visita del ministro Lamorgese, ministro dell'interno italiano, a Tripoli. Contrasto ai flussi migratori illegali, lotta al terrorismo sono i temi principali al centro degli incontri che Luciana Lamorgese sta avendo a Tripoli con Fayez al-Sarraj, con Mohamed Siala, ministro degli esteri, con Maitik, che è il vice premier, e il ministro degli interni libico, il potente Fatih Bashagha. La titolare del Viminale sarà accompagnata e accompagnata dal nuovo direttore dell'AISE, Giovanni Caravelli, che da molto tempo tiene contatti riguardo al dossier libico. In particolare, immaginate, l'incontro con l'omologo Bashagha verterà soprattutto sui flussi migratori e le modifiche al memorandum d'intesa tra Italia e Libia, che risale ormai al 2017. Sul tema diplomatici italiani e libici stanno lavorando da parecchio tempo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Nova, gli emendamenti dovrebbero includere maggiori garanzie per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei migranti detenuti in Libia e la graduale chiusura dei centri di detenzione. Sapete, sui centri di detenzione c'è stata anche una narrativa francamente deplorevole, quando molto spesso anche esponenti politici li chiamavano centri di accoglienza. Sono centri di detenzione a tutti gli effetti. L'immigrazione irregolare clandestina è un reato penale in Libia, salvo poi utilizzare i migranti per lavori, magari quei lavori che i libici non volevano fare, salvo poi con alcune milizie e con alcune frange della polizia libica vendere, rivendere e fare soldi sui migranti stessi. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte dall'agenzia Nova, si parlerà di cooperazione nel campo dello sviluppo, contrabbando, rafforzamento sicurezza frontiere, terrorismo e poi soprattutto di un'area che è quella del Fezzan, che è un crocevia particolarmente importante. Notazione politica: è interessante il fatto che anche il ministro dell'interno italiano, così come già accadde con Minniti, stia un po' prendendo in mano il dossier immigrazione, assieme naturalmente al lavoro che finora ha svolto Luigi Di Maio. Questo è il primo tema, e perdonatemi la lunghezza. Secondo tema invece, ne parlavamo proprio ieri con Arturo Varvelli, a cui peraltro do di nuovo il benvenuto. Arturo Varvelli, lo ricordo, dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. Arturo, buongiorno, ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie. Oggi, Arturo, cerchiamo di recuperare tempo perché ieri abbiamo un po' bruciato il tema libico, no? Invece merita tanto, tanto approfondimento. Io con te vorrei partire, poi andremo sulla questione, se vuoi, più strettamente migratoria, vedremo se usciranno anche lanci di agenzie, qualche indiscrezione su cosa si stanno dicendo. Vorrei tornare a parlare, come peraltro ieri già abbiamo fatto, della linea del fronte di Sirte. Perché? Perché a dispetto, ieri Arturo battezzavamo, io ero molto d'accordo, battezzavamo le parole del generale al-Sisi come parole bellicose, ma che forse non avrebbero avuto seguito. Ai noi, si stanno muovendo truppe proprio nelle retrovie su quella linea calda, linea del fronte, che è quella di Sirte. Abbiamo provato a ricapitolare questi complessi, assicuratevi, ve lo assicuro, gentili ascoltatrici e ascoltatori, tanti attori in campo, tante milizie. Andrea Macchioni ha provato a ricostruire tutto quello che sta accadendo, lo ha fatto in 90 secondi, sentiamo. Dopo i rapidi successi del governo di accordo nazionale, l'avanzata delle forze di Tripoli si è arrestata a circa 30 km dalla città strategica di Sirte. Le armi tacciono da settimane in una tregua de facto che ha permesso scambi di prigionieri tra le due fazioni in lotta. ma mentre minacce e dichiarazioni bellicose hanno preso momentaneamente il posto dei colpi di mitra e di mortaio, dietro la linea del fronte la situazione è tutt'altro che statica. Poche ore fa, infatti, diversi aerei dell'aviazione militare turca sono atterrati nella base di Al-Watiya, mentre immagini satellitari mostrano decine di kirpi, mezzi corazzati dell'esercito di Ankara, fermi al porto di Tripoli. Nel frattempo, i droni turchi continuano i loro voli di ricognizione tra Misurata e il deserto libico. Al di là del fronte, invece, nel territorio controllato dall'esercito nazionale libico, si registrano frequenti collegamenti aerei tra il Cairo e Bengasi, mentre l'Egitto di Al-Sisi sta schierando numerose truppe sul confine orientale libico. Diversi mercenari sudanesi Janjaweed, al soldo del generale Haftar, si sono posizionati a guardia dei pozzi petroliferi di Zilla. Intense attività aeree sono state registrate nelle basi militari di Al-Jufra e Gardabia, entrambe molto vicine alla linea del fronte, mentre truppe della Wagner sono state viste lasciare la città di Hon. Nel frattempo, Sirte è stata interessata da massicci spostamenti di truppe. Veicoli militari di Mosca sono stati fotografati mentre si avvicinavano alla città assieme a sistemi di contraerea della Wagner, che si sono aggiunti alle truppe, e mezzi dell'LNA arrivati ieri. Nel risico libico, tutte le strade sembrano portare a Sirte, in un clima di calma solo apparente, prima della tempesta. Ancora una volta, nella città del Golfo, si gioca il destino della Libia. Arturo Varvelli, quanto sono preoccupanti questi riposizionamenti di truppe? Mi viene da fare un commento, però poi sconfessami. Se qualcuno fa una prima mossa, Al-Sisi inizia a ammassare truppe al confine, evidentemente, anche se sono parole grosse e non seguiranno i fatti, tutti gli altri devono adeguarsi. È solo così oppure c'è qualcosa che si muove davvero? No, io concordo con te, nel senso che mi sembra che si stia al momento giocando una partita a scacchi molto tesa e, come tutti gli scacchisti sanno, molte volte non cadono neanche i pedoni, poi a un certo punto cade un pezzo che sembra inutile, ma si innescano tutta una serie di altre mosse a conseguenza, e questo rende altamente imprevedibile la situazione. Siamo esattamente nella stessa situazione. Sì. Ci sono molti attori che stanno mettendo le mani su questa scacchiera, i pezzi non sono solamente, i pezzi diciamo apparentemente sembrano solo i bianchi e contro i neri, ma in questi vari pezzi, i bianchi e i neri, vengono mossi da più mani. Rimanendo in questa metafora, quindi ci troviamo in una situazione molto pericolosa. Io penso che molto dipenderà dalla risposta dei russi da una parte, degli americani dall'altra. Gli americani si sono un po' mossi nelle ultime settimane proprio sì. perché allertati da una presenza russa, seppur non ufficiale, dobbiamo ricordarlo, certo. altrimenti veniamo accusati di russofobia, ma naturalmente è un po' ipocrita pensare che non vi sia dietro un'azione in qualche maniera coordinata, voluta dal governo di Mosca. Che cosa vogliono i russi realmente? Questa è una domanda che anche noi, sulla quale anche noi esperti non siamo totalmente unanimi. Sì. C'è chi pensa sostanzialmente che i russi vogliano solamente giocare una partita politica e quindi vogliono evitare lo scontro, e per certi versi è stato così fino adesso, sì. perché sono stati in qualche maniera coinvolti, ma quasi sempre secondariamente. Gli egiziani hanno molta paura in questo momento, quindi le loro risposte sono dettate da esigenze di pura sicurezza, quindi anche questo ammassamento di forze sul confine in qualche maniera tentano di cautelarsi relativamente a un arrivo dei turchi forse molto improbabile. Gli americani si sono un po' agitati proprio perché hanno visto i russi, in qualche maniera stanno forse lavorando con altri soggetti che muovono le mani sulla scacchiera e mi rivolgo soprattutto agli Emirati e anche sì. ai Sauditi. I Sauditi, sulla stampa saudita sono uscite delle notizie interessanti proprio da questo punto di vista, che evidenziavano un po'. Allora Arturo, ti interrompo, fermo lì, perché questo mi sembra un aspetto molto molto interessante. Dobbiamo ricordare, Emirati Arabi e Arabia Saudita sono amici, sono fedeli alleati nel Golfo degli Stati Uniti. Stati Uniti che però stanno proprio dall'altra parte sul territorio libico, ancora una volta. Accolgo peraltro con piacere questa metafora che Arturo ha fatto uscire dal suo cilindro. Partita a scacchi, pezzi bianchi e pezzi neri, ma in realtà ce ne sono tanti, tantissimi grigi. Ve li raccontiamo con Arturo Arvelli. Prima però sentiamo come vanno le borse. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. A uno di voi che su Facebook chiede lumi su quella che è la scena al metal tunisina, qui è molto contaminata. La prima band che vi ho fatto sentire, i Barzak, la canzone è Forsen, questi invece sono in A Water, la canzone si chiama Daret Layem. Come dicevo, faticando, voi sapete che cerchiamo sempre delle chicche di metallo, però faticando in territorio libico a trovarle, ci siamo spostati leggermente a est, siamo andati in Tunisia. Dalla Tunisia peraltro arrivano un po' di notizie, un po' di ansia che vengono battute sull'incontro, lo ricordo, oggi il ministro dell'interno Lamorgese con Fayez al-Sarraji, con Bashaga, con Siai, insomma tutto i principali esponenti del governo libico. Invece con Arturo Varvelli, che dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations, abbiamo messo il grand'angolo per cercare di capire, e con quella metafora, Arturo, molto molto efficace, della partita a scacchi in cui, attenzione, muovi un pezzo e quindi l'avversario è costretto a muoverli, ma è una partita a scacchi in cui non sono solo due giocatori, sono tanti, e forse i pezzi sono bianchi, neri, ma anche grigi. Stavi introducendo un ruolo molto importantissimo, giocato dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, e in particolare facevi riferimento a qualcosa che è uscito sulla stampa saudita. Arturo Varvelli. Sì, beh, insomma, sono uscite un po' di pressioni che gli americani, io direi finalmente, stanno facendo sugli Emirati, soprattutto perché sono un attore coinvolto e straordinariamente mai menzionato, che lavora molto dietro le quinte, ma che è stato più efficace sicuramente di egiziani e dei russi nel supporto del generale Haftar. Senza gli emiratini, che gli fornivano probabilmente denaro, che gli hanno fornito mezzi tecnologici avanzati e sofisticati, la guerra di Haftar sarebbe già finita da un pezzo. Ed è strano vederlo che in ogni documento del panel di esperti delle Nazioni Unite viene citato come gli Emirati Arabi non rispettino mai tutte le sanzioni che sono state prese e tutte, diciamo, le norme che sono state decise a livello internazionale, sì, ma non vengono mai in realtà sanzionati. Sì. Quindi diciamo che qui ci vuole un po' di pressione americana. Se arriva un po' di pressione americana, forse, come dire, i giochi possono cambiare, o forse anche questa è un'illusione nostra, però sì. Gli americani possono tornare in partita se vedono una presenza dei russi. Certo, peraltro è frustrante, ma lo dico e qua mi spoglio dei panni del cronista e impropriamente metto quelli del commentatore Arturo, sperando di non rubarti il mestiere, però come dire, è frustrante vedere che ancora una volta, per sbloccare in qualche modo la situazione libica, si debba fare affidamento agli Stati Uniti, a quelli che una volta erano il poliziotto del mondo e che da almeno un paio di amministrazioni invece quel ruolo vorrebbero totalmente abbandonarlo. Peraltro non so se l'hai letto, ma proprio credo un articolo di ieri su Avvenire, c'era una lettera molto interessante che ha scritto Giuliano Pisapia, che in questo momento veste i panni del relatore permanente sulla Libia per il Parlamento Europeo. Ti leggo brevemente un passo perché trovo interessante mettere nero su bianco alcune parole. Il punto di partenza imprescindibile è che in Libia un governo riconosciuto dalla comunità internazionale c'è. Mettere sullo stesso piano un governo legittimo e un esercito che lo combatte non solo è contrario al diritto internazionale, ma ha finora minato l'efficacia e la credibilità di ogni tentativo della diplomazia italiana ed europea. Equiparare aggressore aggredito è stato un errore e ha reso marginale l'Europa, come dimostrato dal fallimento della conferenza di Berlino, che non ha portato alcun risultato. Troppo spesso in Europa, talvolta anche in Italia, abbiamo guardato al conflitto sperando di capire su chi puntare per assicurarci una buona vincita. sia esso il controllo delle frontiere o lo sfruttamento dei pozzi petroliferi. Pisapia con questa accorata lettera sostanzialmente chiede un maggiore coinvolgimento dell'Europa. Ne abbiamo parlato tante volte, Arturo. Credi che l'intervento statunitense possa espropriare una volta per tutte la titolarità, tra virgolette, che ha l'Europa sul dossier libico? Credi che in sostanza sia un pericolo? No, io non lo credo, penso che debbano essere complementari. Se ci illudiamo che l'Europa in qualche misura, intesa come Unione Europea, non come singoli stati che invece hanno una libertà d'azione maggiore, riescano a essere un argine molto forte nei confronti di attori che hanno mezzi militari sul terreno, io insomma penso di essere sulla strada sbagliata, se pensiamo ciò. Ed è per questo che l'Europa è in che cosa è brava? Nel soft power, cioè nel dialogo e anche nel trovare una linea politica, perché se ci ricordiamo insomma il coinvolgimento europeo è stato importante, l'Italia ha giocato un ruolo importante tra il 2015 e il 2016 e grazie all'Italia soprattutto che si è instaurato il governo di unità nazionale a Tripoli, ha avuto un ruolo, l'Europa continua ad avere un ruolo, però non tocca palla quando si tratta di conflitto armato e ora purtroppo siamo ancora in una situazione di conflitto armato, quindi ci vorrebbe un potere di deterrenza, questo potere di deterrenza, questo potere di manovrare legami politici, di fare pressioni diplomatiche, ce l'ha molto scarsa l'Europa, ce l'ha molto di più gli Stati Uniti, soprattutto dal punto di vista che alcuni dei supporter internazionali sono degli alleati degli Stati Uniti, l'Egitto, gli Emirati Arabi innanzitutto, quindi sarebbe, bisognerebbe avere un'azione complementare con gli americani mettono un po' di hard power e noi mettiamo il nostro soft power. E la ricetta mi sembra perfetta sulla carta, salvo poi però, mi metto nei panni degli statunitensi, ma come, io vengo a fare il poliziotto, vengo a fare lo sceriffo cattivo nel difficile territorio libico e poi però me ne vado e sai cosa c'è, gas e petrolio ve li lascio gestire a voi europei, sto con un discorso iper prosaico, mi perdonerete, sintetizzando quello che potrebbe essere un approccio, cioè io intervengo ma voglio anche a fronte di questo intervento qualcosa in cambio e questo potrebbe essere un rischio per gli interessi europei. Arturo, abbiamo perso Arturo Varvelli, sì, è caduto. Allora facciamo una cosa, approfittiamo di questa piccola pausa, andiamo a sentire la viabilità, non prima però di avervi letto un messaggio al 349-238-6666, un ascoltatore, Alessandro, che punta dritto su un aspetto del dossier libico. La situazione libica mostra il disastro dell'esternalizzazione delle politiche migratorie. L'Unione Europea ha concluso accordi con Mali e Niger, con Libia e Turchia per bloccare l'arrivo dei migranti impedendone il cammino. Questi sono stati fallimentari e questo vuol dire che i migranti passano lo stesso quando riescono a non perdere la vita tragicamente. Solo adeguate politiche di sviluppo e crescita, volte a chiudere i rubinetti dell'immigrazione, possono fermare il fenomeno. Questo è un altro punto che tra pochissimo, se recuperiamo la linea, toccherò con Arturo Arvelli, dirige l'European Council of Foreign Relations, ufficio di Roma. Noi andiamo a sentire la viabilità. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora. Agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAIC 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Ce n'è uno in particolare, Manfredo da Firenze, che accoglie la metafora di Arturo Varvelli della scacchiera, ma la sposta, e la intinge di salsa cinematografica. Diceva il grande regista Hitchcock che quando si inquadra una pistola prima o poi questa sparerà, e quel quadrante di pistole ne ha tante. E poi però ribatte sulla questione del soft power, in cui l'Europa, l'avete sentito da Arturo Varvelli, è piuttosto capace. Il soft power va bene in caso di soft air, fa riferimento a questa disciplina in cui si sostanzialmente si gioca la guerra, no? Con dei proiettili riempiti di vernice che non fanno male ma simulano un conflitto, una battaglia. dice appunto i software, va bene in caso di software, quando volano le pallottole ci vogliono i boots on the ground. E torniamo all'ennesimo, all'annosa questione dell'intervento o meno in territorio libico. Arturo Varvelli, ti stavo lanciando una provocazione. Tu dici, arrivano gli statunitensi, fanno la voce grossa, hanno potenza di fuoco, hanno amici anche dall'altra parte, possono fare gli sceriffi cattivi, ma poi vorranno qualcosa in cambio. E a quel punto è vero che la Libia è ricca, ma la torta a forza di affettare poi finisce. No, ma certamente questa è una possibilità, ma penso tutto sommato alla fine che il coinvolgimento americano sarà comunque minimo in questa crisi, perché fin dall'inizio hanno voluto un basso coinvolgimento. Io oserei dire fin dall'intervento del 2011, se ce lo ricordiamo, era una sorta di formula, era leading from behind, come se si potesse guidare stando dietro, era Obama allora. Sì. Ma poi da Obama si è passati a Trump non ne aveva voluto mai sapere di Libia, non ha neanche avuto una linea politica chiara, perché ogni volta che veniva chiamato dagli al-Sisi di turno sostanzialmente appoggiava e sposava la linea di chi lo chiamava, mentre poi il Dipartimento di Stato faticosamente cercava di riportarlo sulla linea del governo di unità nazionale. Non rientra nei radar della politica di Trump, rientra un po' di più in quelli della gestione dell'amministrazione, del Dipartimento di Stato e del Dipartimento della Difesa, ma non c'è un coinvolgimento politico vero. Questo coinvolgimento politico vero potrebbe arrivare solamente se c'è una percezione che il paese possa scivolare in un'influenza russa. Quindi da quel punto di vista allora gli Stati Uniti potrebbero muoversi, e qualcosa potrebbe cambiare naturalmente se Trump perdesse le elezioni, perché Biden naturalmente non ci riporterà all'epoca di Clinton, ma potrebbe avere un approccio un po' diverso. Grazie mille. Arturo Varvelli, ancora una volta, lo ricordo, dirige l'ufficio di Roma dell'European Council on Foreign Relations. Con lui una lunga conversazione per cercare di mettere a fuoco quali sono le nevralgie fondamentali in Libia in questo momento. Arturo, buona giornata, buon lavoro, come l'impressione che ci risentiremo presto però. Grazie a voi. A presto, buon lavoro. Ciao. Musumeci d'accordo con le politiche di sviluppo per l'Africa, scrive un ascoltatore. Il problema è che l'avidità e la corruzione di buona parte dei governi africani le hanno fatto naufragare. Parole sante, santissime, da scolpire nella pietra. L'ho sempre ribadito che uno dei grossi problemi è proprio l'apparato burocratico e statale di tanti paesi africani, e non a caso c'è una folta letteratura di economisti africani che combattono proprio gli aiuti di Stato, dicono stop aid perché non servono, finiscono nelle tasche dei soliti noti, e la popolazione non ha una lira in tasca, ed è quella stessa, guarda caso, che spesso ritroviamo sulle coste italiane ed europee. Allora, vi ho fatto attendere un po', ma complice la situazione libica, che è davvero davvero complessa, vi faccio sentire la voce di Elsa Laino di Medici Senza Frontiere, responsabile affari umanitari. Perché vi ho fatto penare un po', e ci ha fatto penare la povera Laino? Perché in questo momento a Misurata, così come a Tripoli, ci sono continui blackout, le linee telefoniche non funzionano, non so come, grazie forse a un piccione viaggiatore siamo riusciti a avere la risposta a quale domanda: qual è la situazione nei centri di detenzione? Ve lo faccio dire da lei. La situazione dei migranti detenuti nei centri di detenzione libici, che sono controllati dal Ministero dell'Interno, è preoccupante. Medici Senza Frontiere è presente in 4 di questi centri dove portiamo assistenza medica e psicologica, tuttavia le condizioni che possiamo vedere sono devastanti dal punto di vista igienico-sanitario, le persone non hanno accesso sufficiente all'acqua, al cibo e sono per la maggior parte del tempo rinchiuse in celle per 24 ore. E un altro trend che abbiamo notato nelle ultime settimane è che c'è un arrivo di persone in questi centri che sono state intercettate e riportate in mare dalla Guardia Costiera Libica. Quindi le persone che vengono riportate in Libia vengono riportate in questi centri, fra queste persone ci sono anche donne e bambini che sono in queste condizioni nei centri di detenzione. Quasi in diretta è da Misurata, importante città dove peraltro ricordo c'è anche un contingente militare italiano medico, 300 soldati all'ospedale gestito dagli italiani. La voce di Ciwael Salaino, responsabile affari umanitari di MSF in Libia. Intanto vi do notizie, più dettagli sull'incontro Lamorgese, Bashaga, Siala e Fayez al-Serraj. Si è parlato anche, questo è importante, fasi preliminari per il ritorno delle attività delle aziende italiane in Libia, non soltanto di migranti. Importante però anche questo aspetto del memorandum, anzi dell'addendum al memorandum del 2017. Rispetto dei diritti umani dei migranti in Libia, perché se no non dobbiamo e non possiamo stupirci del fatto che le persone che escono dai centri di detenzione, non centri di accoglienza, poi siano meritevoli di protezione umanitaria, perché è automatico nel momento in cui il migrante passa dalle condizioni che avete appena sentito, è meritevole quantomeno di indagine, di intervista, per capire se deve ricevere o meno una assistenza. 349-238-6666, un po' di messaggi che arrivano dai vostri telefonini e dalla vostra tessera. Uno è irripetibile. Allora, ripeto, gentili ascoltatrici e ascoltatori, se mi bollate o bollate i miei ascoltatori come compagno, io non vi leggo neanche. E se bollate il presidente Barack Obama come abbronzato, io non vi leggo. Cioè, il livello della discussione è pacato, sobrio e con l'italiano giusto. E queste offese velate, stucchevoli e ignominiose non le leggerò mai più, ve lo dico. Eh no, Valeria Bernardi mi fa segno, avevamo un'altra pillola che è arrivata al volissimo, era una stima di quanti migranti siano detenuti, è un tema su cui dobbiamo tornare, sul quale evidentemente vi vedo particolarmente sensibili. Allora, a questo punto vi do appuntamento a domani alle ore 16, però prima c'è una parola che è preludio ai titoli di coda. E ai ringraziamenti per tutti voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano, come vi dicevo l'appuntamento domani ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.